Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta. America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The one thing I know about people in the IC is they don't seek the limelight. That means sometimes that the world doesn't always see your successes. The threats that you prevent or the terrorist attacks you thwart or the lives that you save. But I don't want you or folks across the intelligence community to ever forget the difference that you make every day. Because of you, we've had the intelligence to take out Al-Qaeda leaders, including Osama bin Laden. Barack Obama, questo è un intervento di Barack Obama di venerdì, un intervento in cui il presidente di fatto respinge le accuse che ha ricevuto dal Congresso, ha ricevuto dall'opposizione, da molti esperti per una cattiva gestione delle operazioni coi droni e dice di fatto noi andremo avanti perché il mio dovere è quello di proteggere la popolazione civile. Il presidente Barack Obama specificatamente ringrazia la comunità di intelligence e dice letteralmente avete sempre fatto un ottimo lavoro. Se capita un incidente come quello che ha purtroppo causato la morte di civili occidentali, tutti vedono l'errore, ma non si vede mai quando invece le vostre operazioni hanno avuto successo, hanno salvato molte vite americane. Per questo vi ringrazio, grazie per il vostro servizio, per il vostro patriottismo, per il vostro professionismo. Oggi siamo più sicuri. Ecco l'interpretazione di questa dichiarazione di Obama è: bene, abbiamo chiesto scusa, abbiamo fatto un errore, però continueremo ad andare avanti, perché le operazioni di rilevamento fotografico dei droni, l'identificazione di possibili obiettivi e poi il bombardamento conseguenziale sono troppo importanti per cripple, per minare, diciamo, alla base la capacità operativa di Al-Qaeda. Ecco, di questo tema si è parlato molto nei talk show di ieri mattina, della domenica mattina, da Meet the Press a Face the Nation, eccetera, eccetera. Ecco, il tema di fondo è, ma qui cosa sta succedendo? È logico continuare con queste operazioni dove molto spesso magari per uccidere un terrorista si fanno 20, 30, 50 vittime civili? Forse non è meglio rivedere l'intero apparato operativo di questa situazione? Dal mio punto di vista Barack Obama ha già risposto, purtroppo il rischio implicito, queste sono operazioni militari, le operazioni militari inevitabilmente portano alla possibilità di vittime innocenti e d'altra parte noi dobbiamo proteggere la collettività. Ecco, io con me i microfoni di America 24 per guardare in avanti, per cercare di capire anche quello che può essere l'impatto più diretto sul nostro paese, Maurizio Molinari. Maurizio Molinari è il corrispondente per il Medio Oriente della Stampa, è stato qui con noi a New York per molti anni in America e adesso è direttamente sul fronte medio orientale. Siccome si è parlato molto di Libia e io stesso devo dire, quando ho fatto la domanda al presidente Obama, gli ho chiesto se aveva parlato di droni con il Presidente del Consiglio, questo nella conferenza stampa di venerdì 18 aprile, e Obama mi ha subito risposto no, assolutamente non abbiamo parlato, ma in realtà la sua risposta era un po' strana, è come se gli avessi chiesto avete parlato di Uganda. Ecco, Maurizio, tu hai visto quell'interscambio che ha avuto col Presidente, ti è sembrata una risposta un po' affrettata la sua? Buongiorno intanto. Buongiorno Mario, ma il tema dei droni è molto scivoloso per il Presidente, chiaramente l'errore compiuto è imbarazzante e anche in quel caso la risposta che si diede denotava una certa difficoltà nell'affrontare l'argomento. È scivoloso però perché per lui, da quando si è insediato alla Casa Bianca nel gennaio del 2009, la guerra dei droni è stata un po' l'asse portante della sfida al terrorismo, è stato il suo modo di combattere. L'ipotesi che ci rinunci è obiettivamente molto lontana. Ecco, però veniamo a noi, perché proprio durante quella visita a Washington si cominciò a pensare o a ipotizzare che magari il Presidente del Consiglio Renzi potesse chiedere a Obama di intercedere presso il Senato per poter autorizzare la vendita di missili, di armi, perché noi abbiamo dei droni ma sono soltanto droni da ricognizione. Perché questi droni siano armati bisogna che ci sia un'autorizzazione al Congresso, che non c'è. Ma questo, devo dire, mi ha dato un po' di ghiacciasangue, perché se noi vediamo come gli americani, che fanno centinaia di operazioni, hanno un'intelligence dei migliori al mondo, poi fanno errori di questo genere, e tu ritieni che sia saggio, prudente pensare, come pensano alcuni in Italia, di armare i nostri droni per poter poi andare a bombardare obiettivi militari magari dell'ISIS in Libia piuttosto che dei trafficanti di vite umane prima che i profughi, gli immigrati siano caricati sui barconi? Ma non c'è dubbio che l'Italia è oramai fra le nazioni che producono droni e che ne dispongono, anche sul mercato siamo molto competitivi con alcuni prodotti, ma l'ipotesi di averne di armati io non credo che rientri nelle caratteristiche del nostro paese. Io però l'interrogativo è un altro, cioè visto che a Sigonella, nella base americana in Sicilia, sono posizionati alcuni droni molto sofisticati come il Global Hawk nelle mani degli americani, il vero interrogativo secondo me è se le informazioni che raccolgono possono essere condivise dagli italiani in maniera tale da perfezionare la protezione dai barconi e gli immigrati, con gli immigrati clandestini. E forse questo è l'interrogativo che ci dobbiamo porre. Quindi tu dici facciamo più un'operazione di intelligence, ma io credo che ci sia già una condivisione soprattutto sul fronte dell'immigrazione. E poi l'altra domanda è fino a che punto interverrà l'Europa. Tu dalla tua posizione privilegiata in Medio Oriente non vedi solo l'Italia ma vedi l'Europa. Ecco, secondo te c'è stato un passo in avanti negli incontri della settimana scorsa? Se dobbiamo pensare a che cosa sarà la situazione, diciamo, fra 3 mesi, perché ormai questa tragedia dei 2 innocenti occidentali uccisi e appartiene al passato, giusto o sbagliato che sia, insomma. No, proprio pensando all'Europa, che io accennavo ai Global Hawks posizionati a Sigonella, perché Mario sono dei droni molto avanzati in Medio Oriente, in Egitto, in Libano, un po' tutti sanno che sono fra le armi più sofisticate che gli americani hanno. E da quanto se ne sa, le informazioni raccolte restano al momento solamente nelle mani del Pentagono. Ed è un po' una contraddizione, perché si tratta di aerei che decollano da Sigonella. Io credo che è possibile che nelle prossime settimane i paesi europei chiedano in qualche maniera agli americani di condividere di più queste immagini che raccolgo. Stiamo parlando di droni che possono volare per 30 ore senza fermarsi, decollando da Sigonella possono arrivare praticamente fino ai confini del Pakistan. È un argomento fino a questo momento sottaciuto fra gli alleati, che potrebbe entrare nell'agenda dei rapporti bilaterali. Ecco Maurizio, questi Global Hawks però sappiamo per ora almeno sono soprattutto aerei di ricognizione, dunque essendo posizionati a Sigonella certo hanno un raggio d'azione molto ampio, però il loro mandato di pattugliamento probabilmente sarà nel contesto medio orientale. Secondo te c'è un rischio che vengano armati? Ma io credo che gli americani per ora, rendendosi conto che il Mediterraneo è un piccolo mare, non stiamo andando a bombardare in mezzo a foreste sconosciute tra le montagne del Waziristan dove non c'è nessuno e dove non si sa nulla. Lì passano le navi, passano gli yacht. Ecco, io sarei sorpreso che gli americani cominciassero ad essere così aggressivi anche sulle coste del Nord Africa, che dici? Sono assolutamente d'accordo con te, è un'ipotesi molto remota, però è legittimo presumere che fra gli alleati questo tema, come usare i droni nel Mediterraneo, potrebbe essere nell'agenda dei prossimi mesi. Ci sarebbero 1000 altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili e resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, abbiamo parlato di Mediterraneo, abbiamo parlato della necessità di costruire un ponte invece di mandare i droni a fare dei bombardamenti incauti. E dunque, pensando a queste acque turbolente, oggi vi propongo Bridge Over Troubled Water di Simon & Garfunkel. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi ha presentato America 24.